Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda la giornata in sé, parleremo, ieri è arrivato al programma già concluso chiaramente la notizia della Federal Reserve e quindi del rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto, il secondo però quest'anno. L'economia americana cresce e il mercato del lavoro si rafforza, non cresce ai livelli che alcuni immaginavano, ma insomma il giudizio di Janet Yellen è stato abbastanza netto, mentre per inciso faccio notare che oggi qualche problema arriva dalla Gran Bretagna, nel senso che l'inflazione sta crescendo in Gran Bretagna più delle attese dopo la Brexit. E questo, secondo l'Istat britannico, non lo dico io, lo dico ai tifosi della Brexit, ha portato al dato di maggio con un vero e proprio tonfo dei consumi, meno 1,6%, esclusi i carburanti, decisamente superiore al meno 1% previsto e dopo un più 2% di aprile. L'agenzia Bloomberg scrive che l'inflazione in netto rialzo sta cominciando a intaccare il prezzo, il potere d'acquisto e quindi i consumi. Dal giorno del referendum, nonostante alcuni sali scendi delle ultime settimane, la sterlina infatti ha perso circa il 10% sia sul dollaro che sull'euro. Visto che parliamo di prezzi, vale la pena ricordare che oggi sono arrivati anche quelli al consumo e in Italia. Lì è stata confermata a maggio l'inflazione all'1,4% con un indice in calo su aprile dello 0,2%. Rallentano anche i prezzi del carrello della spesa, quelli dei beni più utilizzati, più comprati, più 1,6% rispetto ad aprile, più 0,1%. Parleremo di questo, parleremo però anche del gruppo cinese Yida International Investment, che ha inviato un'offerta per Esselunga sotto forma di manifestazione di interesse vincolante pari a 7 miliardi e mezzo di euro, e quindi oltre la valutazione espressa a fine dell'anno scorso da alcuni fondi di investimento, uno su tutti Blackstone, ma anche Capital Partners, che vedeva l'Esselunga valere, prima della scomparsa del fondatore Bernardo Caprotti, tra i 4 e i 6 miliardi di euro. Qui i cinesi offrirebbero 7 miliardi e mezzo di euro, non è dato sapere insomma la risposta dell'azienda, però attenzione, l'offerta c'è e non era attesa dagli attuali proprietari di Esselunga, che sono la seconda moglie di Caprotti, Giuliana Albera, e la figlia Marina Caprotti, che da quello che si capisce sarebbero interessati a mantenere la proprietà e gestire il gruppo con l'attuale amministratore legato Carlo Salza. La manovra del governo incassa la fiducia, 144 sì, 104 no. Partiamo da qui, perché poi oltre ai temi legati alla manovra, ne parleremo in apertura, sugli scenari economici che si stanno delineando, sia le notizie positive arrivate in queste due settimane, ma i rischi sempre sullo sfondo. Poi appunto parleremo di Stati Uniti e della decisione della Yellen e dell'Esselunga, ma anche, dimenticavo, si fa per dire, l'aggiornamento quasi quotidiano sulle banche venete, perché ieri il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, come molti di voi sanno, ha dato via libera all'azione di responsabilità contro gli ex vertici, chiedendo complessivamente 2 miliardi e 300 milioni di euro come danno cagionato dagli ex vertici di Veneto Banca alla banca stessa. Un conto tutt'oggi provvisorio e potenziale, così ha commentato uno dei consulenti di cui si avvalsa Veneto Banca. Un'analoga azione di responsabilità, ma da 1,5 miliardi, era stata approvata contro gli ex vertici della Popolare di Vicenza lo scorso 13 dicembre, e nel frattempo bisognerà capire anche dove sono questi soldi, non confonde due cose, ma dove sono questi soldi. E ne parleremo nella seconda ora del programma. Dicevo però della manovra, che visto che il governo ha incassato la fiducia sulla manovrina, quella che deve portarci, deve correggere il deficit dello 0,2%, Gentiloni ha detto: abbiamo approvato la manovra correttiva, gli impegni di bilancio sono mantenuti senza nuove tasse, e la priorità è andata ai fondi per la ricostruzione post terremoto. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Archiviata per ora la prospettiva di una fine anticipata della legislatura che avrebbe condotto alle elezioni politiche tra settembre e ottobre, dal Parlamento sembrano ora venire segnali per portare al traguardo dell'approvazione definitiva alcune leggi di sicura importanza. Ieri è toccato alla riformina del processo penale, oggi è stata la volta del decreto legge di aprile, approvato con la fiducia al Senato, un decreto nato per dare seguito alle richieste europee di una correzione da 3,4 miliardi di euro dei conti pubblici, ma che poi ha assunto i contorni e le dimensioni di una vera e propria legge di bilancio. Era nata come una manovrina e si è via via trasformata in una specie di manovra bis, con misure a tutto campo, dai rimborsi, dalle compensazioni IVA, fino all'addio agli studi di settore, dalla web tax ai nuovi voucher. Chiuso questo capitolo, ora però si guarda avanti. Per una decina di provvedimenti, di disegni di legge, il traguardo dell'approvazione finale potrebbe essere davvero a portata di mano, se non altro perché sono testi che hanno già ottenuto il voto di un ramo del Parlamento. Si va dalla legge sul biotestamento alle norme sulla concorrenza fino alla riforma del codice antimafia. Vedremo che cosa accadrà, però diciamo subito che è meglio non farsi troppe illusioni, come dimostra anche la zuffa che è scoppiata oggi al Senato in aula, dove tra le proteste di Lega e Movimento 5 Stelle si cerca di approvare la legge sul diritto alla cittadinanza per chi nasce in Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Dunque, vedo che molti ascoltatori al 349-238-6666, che è il numero per gli sms, per WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi c'è la diretta anche su Facebook del programma. Molti scherzano, mi prendono in giro per aver detto come lapsus manovra corruttiva invece che manovra correttiva. Vabbè, è stato un lapsus, ma le manovre non sono corruttive, abbiate pazienza, ci occupiamo anche di quello ogni venerdì. Quella classifica la corruzione a altri canali, non è la manovra che genera la corruzione, per cui è stato solo un errore e non stavo pensando alla manovra corruttiva. Invece, a proposito di manovra, vedo molti che mi scrivono sullo Ius Soli. Guardate, non è di demografia, ci siamo occupati due giorni fa, per carità, e del calo continuo demografico. Il tema però, poi ognuno può pensare come vuole dal punto di vista politico, ci mancherebbe, andate a vedere cosa fanno gli altri paesi europei, abituiamoci ogni tanto a guardare quello che fanno gli altri, e cioè se lo Ius Soli viene dato solo da noi o invece come siamo uno dei paesi più restrittivi nel concedere la cittadinanza ai bambini nati qui, che non si capisce come faccia poi un bambino a fare dell'asilo, le scuole medie e quant'altro con i suoi compagni di classe e avere ancora il permesso di soggiorno. Ma soprattutto, al di là di quello che vedete, che cosa fanno gli altri paesi prima di sparare alcuni, no? Perché allora o sono tutti pazzi come sempre, siamo noi migliori, oppure forse ci stiamo adeguando anche a quello che è il diritto comunitario in molti paesi. Comunque non voglio tornare su questo. Su Zonin qualcuno mi scrive: ma la sua azienda vinicola, attenzione, perché la casa vinicola Zonin, la proprietà della casa vinicola Zonin è stata trasferita completamente ai figli e alla moglie dell'ex presidente, che ha un fatturato che è salito negli ultimi due anni da 100 a 150 milioni di euro. Ha annunciato anche l'acquisto di nuovi vitigni in Cile. L'utile ha raggiunto i 5 milioni. Però non c'entra, perché lì la proprietà è un'altra. Nel senso. Allora, non possiamo guardare a cosa fanno gli altri solo quando ci pare. No, dico, sempre guardiamo cosa fanno gli altri nella lotta all'evasione, nell'efficienza della macchina pubblica, nei tipi di tassazione, e anche quando si tratta di trovare una formula che non faccia sentire, diciamo, che certifichi il fatto che se qualcuno nasce in Italia, fa le scuole in Italia, parla italiano come il figlio è italiano a tutti gli effetti. Questo non capisco il problema, a meno che uno non voglia andare indietro alla razza. Beh, che sarebbe un po' interessante che il paese, il popolo più meticcio del mondo, abbiamo avuto invasioni di qualunque tipo, siamo il frutto bellissimo di tante mescolanze, rivendicasse un'idea della razza. Però andiamo avanti. Andiamo avanti sulla manovra. Perché lo dico? Perché oggi delle ipotesi di manovra ha parlato il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, dicendo: attenzione, sarebbe un errore non prorogare gli iperammortamenti e superammortamenti, quelli fatte per la legge, per la cosiddetta industria 4.0, 140 e 200, rispettivamente 140 e 240%. Ha detto Boccia: non sono incentivi ma indirizzi di politica industriale, cioè dicono che se tu vai a ammodernare i tuoi impianti hai un iperammortamento e un superammortamento, cioè spingono, diciamo, le imprese a digitalizzarsi, ma non nel senso della retorica, cioè a digitalizzarsi in maniera seria. La ripresa parte anche da questo settore, che è un settore significativo e direi anche trasversale, perché raccoglie in filiera tante nostre associazioni che impattano sul settore delle costruzioni, sul manifatturiero puro. Un po' l'idea di Confindustria, e quindi c'è una grande identità culturale, un'idea di industria dal cuore manifatturiero, storia di Confindustria, ma un'industria larga, e cioè industria delle costruzioni, dei servizi, del turismo e della cultura. Il ministro Calenda ha detto che gli incentivi superammontamento per le imprese potrebbero non essere prorogati. Secondo noi è un errore. Intanto non li consideriamo degli incentivi, ma li consideriamo degli strumenti di indirizzo delle scelte dell'industria italiana. Se vogliamo puntare su un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti, nonostante le criticità che abbiamo come paese, ricordiamo che la nostra impresa paga il 20% di cosiddetto global tax rate, di tasse in più rispetto a un'impresa tedesca, dobbiamo usare strumenti selettivi e premiare chi investe nel paese. E tra l'altro questi strumenti stanno permettendo un incremento dell'export e un incremento degli investimenti privati nel paese. Depotenziarli in questo momento, a nostro avviso, sarebbe un errore, perché ridurrebbe gli effetti sul PIL del paese, che poi, come dire, sarebbe un errore per tutti. Sarebbe sufficiente una mini proroga oppure anche una maxi proroga, diciamo un po' più lungo rispetto a settembre 2018? Guardi, secondo noi dovrebbe essere un sistema strutturale che invita l'industria italiana a fare un grande salto di qualità. Ancora molti messaggi su Zonin, poi ci arriviamo. Invece, nell'introdurre il primo tema, cioè lo scenario economico, e portando un libro in trasmissione come spesso facciamo, avete sentito il presidente Confindustria Boccia che diceva il settore dove oggi lui ha parlato si chiama ANIE, ed è il settore dell'elettronica italiano, che ha elettrotecnica, bene l'elettronica più 4,2%, stabile l'elettrotecnica meno 0,7%, stiamo parlando di 1300 aziende associate, 470 addetti per un fatturato aggregato di 74 miliardi. Sentiamo Giuliano Busetto al microfono della nostra Anna Marino, che avrà raggiunto anche il presidente Boccia, e poi cerchiamo di capire una cosa che ve l'anticipo, perché alcuni di voi faranno un salto sulla sedia, altri diranno finalmente. Il libro e lo scenario economico che ci permetterà di parlarne. Il libro si chiama L'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione. Prima però l'ANIE e poi vediamo di capire se l'austerità fa crescere. Sono positivi soprattutto per il comparto dell'elettronica. Per l'elettrotecnica forse leggermente meno, però è stato un anno legato un po' all'instabilità, e quindi come tale noi ci aspettiamo che il 2017 possa essere decisamente più positivo. Quindi il 2016 è stato trainante per la ripresa, quali prospettive invece per il 2017? Il 2017 verrà secondo me trainato proprio dall'industria manifatturiera, da questo piano anche di investimenti importanti, e l'industria rappresenta, come dire, il cuore, l'anima di un'economia che sta bene, florida. E poi abbiamo visto come siamo in un mood positivo per tutta un'altra serie di investimenti, ad esempio nei trasporti, il piano delle ferrovie, ma anche in ambito energetico. Dopo un po' di, direi, stasi dal punto di vista di energie rinnovabili, ma anche energie tradizionali, il piano che oggi sia Enel sia Terna hanno presentato dimostra ci saranno dei consistenti investimenti nel prossimo futuro. L'identikit di Eni è oggi e come è cambiata anche durante la crisi? Beh, cambiate non tanto Eni, sono cambiate le imprese. Noi siamo lo specchio di oggi ben 1300 imprese, 468.000 addetti, 14 associazioni di categoria e di settore, e quindi noi ovviamente dobbiamo seguire anche l'evoluzione all'interno delle aziende. Le aziende sono certamente cambiate, sia all'interno di Eni sia le aziende clienti che noi serviamo, perché la dinamicità dei mercati oggi è qualcosa di sempre più rapido. Industria 4.0, voi avete messo a punto anche, diciamo, un quadro di come soddisfare le condizioni, ma avete anche detto che appoggiate un rinnovo, è così? Appoggiamo un rinnovo soprattutto dal punto di vista della consegna dei beni durevoli, delle macchine, perché oggi è prevista una consegna entro giugno del 2018 e so bene come alcune di queste richiedono dei tempi più lunghi, e noi che forniamo tecnologie dobbiamo essere sicuri di poterle anche consegnare in tempo. Per cui spingiamo affinché gli ordinativi siano entro dicembre 2017, ma almeno che ci sia lo spostamento della consegna a dicembre del 2018. Quindi vi aspettate che il governo dia appunto maggiore fiato a questa consegna? Io spero di sì, se ne sta parlando, credo che tutti quanti siano consapevoli anche delle problematiche, non vogliamo poi dei colli di bottiglia, ma soprattutto io credo che questo sia, mettiamo in moto di nuovo l'industria manifatturiera, ma aspettiamoci almeno 10 anni di successivo sviluppo futuro, quindi dobbiamo mantenere alta la pressione, la spinta su questi temi. Dunque, allora, grazie per averci raggiunto in collegamento alla professoressa Veronica De Romanis, economista, insegna all'Università Lewis, e ha da poco pubblicato per Marsilio il libro, appunto, L'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione. Buonasera, professoressa. Buonasera. Dunque, due cose devo precisare. Non ho intenzione di parlare dello Ius Soli. Ho detto semplicemente che bisogna vedere cosa fanno anche gli altri paesi, nessuno ha mai detto che bisogna accogliere qualunque tipo di profugo, è un'altra cosa, si tratta di capire che cosa diamo a ragazzi e persone nate in Italia che hanno fatto le scuole in Italia e parlano correttamente italiano e sono integrati in Italia, ok? Se poi uno vuole dire che anche chi ha il permesso di soggiorno regolare ha un figlio qui, non deve aver riconosciuto niente, anche se lavora da anni in Italia, nelle fabbriche italiane, come badante, come cof, come cameriere, come tutto quello che fa, secondo me è una follia, ok? Qualcuno mi dice non abbiamo mica bisogno di persone, abbiamo appena fatto 2 giorni fa un approfondimento sul calo demografico costante in questo paese, dopodiché nessuno ha detto che si possa accogliere qualunque persona in questo paese, non abbiamo mai detto questa roba, però facciamo anche pace ogni tanto con il cervello, mi dovete dire che cosa si fa di chi nasce da genitori regolarmente presenti in Italia, che lavorano regolarmente, contribuiscono, pagano le tasse, che siano australiani o che siano, diciamo, nel Nord Africa, non mi interessa, perché vale per tutti le persone extracomunitarie. Chiuso questa parentesi. De Romanis, in questo programma, come lei sa, abbiamo attaccato in tutti i modi possibili la Germania per un'austerità ragionieristica senza senso in questi anni, che a nostro avviso ha portato l'area euro a beccarsi la seconda recessione, a far crollare il consenso nei confronti dell'Europa e in maniera cieca è diventata prociclica, cioè ha aumentato la crisi, perché era solo austerità senza nessuna politica di investimenti, non di sprechi. Il che non vuol dire però che uno allo stesso tempo non debba fare i compiti a casa e controllare la spesa pubblica, i famosi 130 miliardi di beni intermedi li abbiamo aggrediti solo marginalmente. Qual è l'austerità che fa crescere? Perché immagino che non tutte le austerità facciano crescere. E quando è che il rigore è la soluzione? Allora, intanto bisogna dire che l'austerità non è imposta dalla Germania, ma è risultato di scelte di governi nazionali. Cioè, se io ho un debito e lo aumento e continuo ad aumentarlo, ma a un certo punto i mercati non si fidano più di me, non mi prestano più e mi chiudono l'accesso, come è successo per esempio alla Grecia, io non ho altra scelta che chiedere finanziamenti ai miei partner europei. E a quel punto i partner europei che hanno dato i finanziamenti alla Grecia, ricordiamoci, la Grecia è al terzo programma di aggiustamento per un totale di 300 miliardi, dove noi anche abbiamo contribuito, è chiaro che è stato chiesto in cambio delle condizioni che sono state chiamate austerità, ma questo semplicemente perché assegni in bianchi politicamente è molto difficile da farli passare. Ora, poi come viene applicata l'austerità è una scelta anche quella nazionale. Per esempio, Tsipras ha deciso di non toccare le tasse per gli armatori, ha deciso di non ridurre la spesa per la difesa e le spese militare, e invece ha, diciamo, applicato un'austerità molto severa alla classe medio-bassa. Queste sono scelte nazionali, non hanno niente a che vedere né con la Germania né con l'Europa. Ricordiamoci tra l'altro che a questi salvataggi partecipano anche paesi che sono molto più poveri della Germania, come la Lituania, la Slovenia, e che vi partecipano solo perché sono membri dell'area dell'euro. E quando si sono seduti al tavolo, quando Tsipras ha cercato di rinegoziare le condizioni, si è trovato lui contro 18, non lui contro la Germania. No, ma lasciamo io non dico che sia solo la Germania, però diciamola tutta. A me piacciono le teorie, ma mi piacciono anche i risultati. Allora, la Grecia, un attimo, la Grecia, dopo tutti questi anni, è ancora lì, e il Fondo Monetario, non il sottoscritto, dice: o vi decidete a capire che tanto la Grecia non ripagherà mai il suo debito, o se no continuate a strangolarla come il gattino di Mao, lentamente, lentamente. Aggiungo, perché poi vorrei dopo mettere la pubblicità alla sua risposta, che su questo è verissimo che noi abbiamo firmato gli accordi, vale per il fiscal compact, vale per le clausole di salvaguardia, però si può dire che un conto è l'austerità, che non ti fa sprecare come abbiamo fatto noi negli anni, e quindi dice no all'aumento dei costi della pubblica amministrazione, per esempio. Altra cosa è mettere assieme tutto nel deficit, cioè sia i costi sia gli investimenti, perché i tedeschi, gli olandesi, gli austriaci, tutti i paesi satelliti che ruotano attorno, non distinguono mai, e non lo fa neanche l'Europa, tra una spesa fatta per un investimento infrastrutturale, digitalizzazione, quant'altro, i porti, aeroporti, o un costo vero e proprio, così quanto costano le siringhe nella sanità italiana. Secondo lei non sarebbe il caso di iniziare, come fa qualunque imprenditore, a distinguere tra costi e investimenti? La risposta le chiedo cortesemente dopo il meteo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Vedo che alcuni criticano la posizione della professoressa De Romanis, altri le elogiano, e questo è perché prendiamo posizioni che magari non sono quelle che sono le nostre, volentieri per discutere. Allora, professoressa De Romanis, il tema è: non mi sembra che l'austerità poi abbia portato la Grecia, nel caso specifico della Grecia, a rialzare la testa, ma più in generale nessuno dice che bisogna tornare a sprecare, a accumulare debito, ma a distinguere in maniera più ragionata, penso agli investimenti di carattere europei, agli euro bond, tra quello che è un costo, cioè quanto ci costa noi la sanità e i costi impropri, e quello che è un investimento. Finiamo le infrastrutture, facciamo i porti, digitalizziamo il paese, vale per tutti i paesi, non solo per l'Italia. Allora, 30 secondi sulla Grecia, proprio per dimostrare che l'austerità è frutto di scelte nazionali. Quando Samaras nel 2014 ha perso le elezioni, il paese ha ripreso a crescere dello 0,4% e soprattutto ha collocato sul mercato 4 miliardi di titoli di debito pubblico. Questa è la dimostrazione che il paese era diventato credibile. È arrivato Tsipras, i mercati hanno di nuovo chiuso l'accesso e il paese è caduto in recessione. Quindi questo dimostra che dipende da cosa fai, che tipo di austerità fai, se aumenti le tasse, se non le aumenti gli armatori, se invece tagli la spesa della sanità piuttosto che la spesa per la difesa e le spese militari. Il Fondo Monetario è chiaro che chiede una ristrutturazione, perché il Fondo Monetario è un creditore privilegiato, a lui non pagherebbe assolutamente nulla, non sarebbe penalizzato da un famoso haircut, mentre lo saremmo noi contribuenti. Noi per esempio italiani abbiamo dato 60 miliardi in totale per tutti i salvataggi, di cui una parte anche per la Grecia. Nel caso di una ristrutturazione del debito greco saremmo noi a essere penalizzati, non gli azionisti del Fondo Monetario, che sono prima di tutto gli americani e poi cinesi. E questo va detto chiaramente, ecco perché la Germania si oppone e propone una soluzione che di fatto è molto simile, semplicemente rendere più graduali le scadenze. Per quanto riguarda gli investimenti, certo che è importante distinguere fra spesa e spesa, però se noi pensiamo alla flessibilità che è stata data all'Italia, ultimamente l'Italia ha avuto 20 miliardi di flessibilità, che di base è un po' quello che chiede lei, cioè diamo spazi di manovra di bilancio maggiore a chi usa il disavanzo, cioè la spesa finanziata in disavanzo, per investimenti o per riforme. Questo perché? Perché metti in moto un circolo virtuoso che avrà un impatto sulla crescita e quindi poi dopo avrai anche una riduzione del tuo debito e del tuo disavanzo. Se andiamo a guardare i dati italiani, però, di questa flessibilità, quasi nulla è stato utilizzato per aumentare gli investimenti, anzi gli investimenti negli ultimi 3 anni si sono calati, non l'abbiamo detto molte volte. Quindi questo è chiaro che quando poi ti siedi al tavolo delle trattative con gli altri stati europei e devi negoziare, come diceva lei, gli euro bond o degli avanzamenti dell'unione fiscale, beh, la credibilità conta, però io direi che a questo punto l'austerità non è altro, e questo bisognerebbe spiegarlo perché i politici un po' la usano come così... addirittura la chiamano austerity in inglese per far capire quanto sia imposta dall'alto. L'austerità non è altro che un uso responsabile delle risorse dei cittadini, cioè delle risorse di tutti noi. Significa tagliare le spese improduttive per andare a investire in comparti di spesa più produttivo. È chiaro che però questo toglie potere alla politica, ecco perché alla politica non piace. Sì, però nei paesi dove è stato fatto, dove è stato ridotto il perimetro della pubblica amministrazione, dove le spese sono state ridotte e tra l'altro questo ha permesso anche una riduzione della pressione fiscale, oggi questi paesi crescono. Allora, professore, due cose. Gli Stati Uniti però per uscire dalla crisi hanno avuto un approccio completamente diverso, infatti hanno imbarcato deficit, lei mi dirà se lo potevano... No, però interrompo, questo non è vero. Se noi guardiamo i dati, la politica degli Stati Uniti è stata molto più restrittiva deficit, sono arrivati fino all'8% del deficit. Per misurare l'austerità bisogna guardare un indicatore che è il saldo primario al netto del ciclo. Se guardiamo quel saldo lì, ed è pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale, vediamo che questo saldo non ha fatto altro che ridursi negli Stati Uniti. Quindi Obama in realtà ha fatto una politica molto più restrittiva che la nostra. No, ma quello che sto dicendo, professor De Romanis, è che da noi la politica di aumentare il deficit per reagire alla crisi non si poteva fare per via del 3%. Ma la domanda che volevo farle è un'altra. Va bene tutto, nessuno qua ha mai detto, abbiamo anche la classifica degli sprechi in settimana, che bisogna sforare gli accordi presi per... dare i soldi a pioggia, e sono d'accordo con lei, e l'abbiamo detto 2 o 3 volte, che il fatto che in questi anni siano continuati a calare gli investimenti dimostra il fallimento della spending review. Poi Guttgel adesso presenterà i dati, ma io dico semplicemente, se tu avessi fatto una vera controllo della spesa pubblica avresti dovuto vedere aumentare gli investimenti e calare magari altre spese per beni intermedi improduttive. Detto questo, però, l'austerità come la intende lei, cioè la responsabilizzazione dei soldi che uno spende, secondo me non è che si è sbagliati di principio, è che se lasci solo, e quello che noi abbiamo visto in questi anni è stata solo l'austerità, non anche l'austerità, e non è una politica che dica bene, attenzione, per quello che riguarda le infrastrutture te le scorporiamo, ci sono 1000 proposte su questo, se l'investimento è un'infrastruttura che rende più competitiva l'Europa, penso ai corridoi 5 8 per l'Italia possiamo scorporare dal deficit, perché quello ti rende più competitiva come area economica rispetto ai cinesi, agli americani e agli indiani o anche all'Asia minore. Se tu riesci a fare degli euro bond, delle obbligazioni che dai, dei prestiti che dai solo per un'opera infrastrutturale, elimini il problema di passare dalla politica nazionale. Nulla di tutto questo è stato mai fatto. Da lì, secondo me, e vorrei sapere cosa ne pensa, il fatto che poi l'austerità da sola sia finita nel mirino. L'avessi accompagnata con un'altra gamba che diceva attenzione sugli investimenti che rendono più competitivo un paese e un'area economica, invece si può fare, non li consideriamo come quello che spendete per pensioni o per sprechi, forse l'austerità sarebbe stata compresa di più, o no? Allora, intanto sulla spending review in Italia, lei appunto parlava di Guttgel, secondo me uno dei motivi per cui non funziona in Italia è proprio perché abbiamo delle persone che sono dei commissari tecnici e non sono il ministro dell'economia. La spending review in tutti i paesi dove funziona è responsabilità della politica, noi non facciamo altro che chiamare commissari tecnici, ora con Guttgel abbiamo fatto un passo avanti perché almeno è parlamentare, ma insomma poi alla fine fanno delle belle ricette ma nessuno... ci dà tanto peso perché la responsabilità sa dovrebbe prendere la politica e non i tecnici. Per quanto riguarda quello che dice lei sugli investimenti, di nuovo l'austerità ha a che fare con le scelte nazionali. Per quanto riguarda invece le decisioni a livello europeo, quello riguarda il budget europeo, se i paesi hanno intenzione di metterci più soldi è diverso. No, professoressa, mi scusi. Gli euro bond sono una proposta che blocca la Germania, non deve tirare fuori un euro la Germania. Il problema è che i tedeschi non vogliono garantire un debito di carattere europeo, un po' diverso, nessuno chiede soldi. Per quanto riguarda gli euro bond, la Merkel ha sempre detto, gli euro bond va benissimo, ma non sono un punto di partenza, sono un punto di arrivo. Cosa vuol dire lei con questo? Vuol dire io politicamente non ho la forza per far accollare i rischi degli altri. Allora, se un paese come l'Italia ha un debito pubblico che non fa altro che aumentare negli ultimi 3 anni, Renzi aveva promesso che avrebbe ridotto il debito pubblico non perché ce lo chiede la Merkel, ma perché ce lo chiedono i nostri figli, ed ha perfettamente ragione la famosa generazione Telemaco. Beh, negli anni del governo Renzi il debito pubblico è passato dal 129 al 133%. Quindi di fronte a un debito pubblico italiano che è il secondo nell'area dell'euro e che non scende, è chiaro che quando ci si siede al tavolo dei negoziati, i tedeschi, ma non solo loro, le dicevo anche gli spagnoli, i portoghesi, cioè coloro che hanno fatto dei sacrifici veri e che ora vedono i frutti, dicono beh, facciamo prima di condividere i rischi, facciamo una riduzione di questi rischi. E io penso che la Merkel nel suo quarto mandato, se lo vincerà come è molto probabile, sarà molto più propensa a fare questi passi in avanti in Europa, quindi andare. Però vediamo se posso fare questa domanda. Domani dobbiamo farlo anche allora, noi. Fermo, noi sosteniamo a non toccarlo questo debito. No. Allora, su questo siamo d'accordo. Per la Merkel e per gli Eurobond, dobbiamo farlo per i nostri figli perché lo pagheranno loro. Guardi, soprattutto ora che finisce il QE. Abbiamo difeso l'opera di Cottarelli non perché ci stia antipatico Good, che è stato ospite molte volte, ma perché non si è mai capito perché uno che ha fatto tutto un libro bianco denunciando tutta la spesa aggredibile, è uno dei pochi punti di caduta di unione tra me e Oscar Giannino, viene preso e mandato via perché non faceva parte del cerchio degli amici. Mettiamola così? Allora, io però voglio chiedere un'altra cosa, ed è l'ultima. Va bene tutto, ripeto, noi cerchiamo di tenere il doppio peso tra un'Europa che pensi anche agli investimenti di carattere europeo e un'Italia che la smetta di sprecare soldi e di usare scuse, di dare soldi a pioggia e via così. Detto questo però, mi scusi professore, se lei dice, se ho capito il suo ragionamento, tutta l'approccio diciamo di carattere europeo, area euro, va bene così, ma non ne usciremo mai perché uno può chiedere all'Italia riduci il tuo debito, nel frattempo gli euro bond non sono per l'Italia, sono per l'area euro, cioè se il corridoio 5 non va solo in Italia, parte da Barcellona e arriva nell'est Europa, oltre Bratislava. Secondo aspetto, mi scusi, ma da questo punto di vista i risultati che stiamo ottenendo anche politicamente non sono soddisfacenti. Allora un conto è dire l'Italia continua a ridurre il tuo debito e un conto è dire no, ognuno fa quello che vuole con la Germania che se ne sbatte allegramente di rispettare gli accordi europei sul surplus. Mi segue? Allora quello che emerge è vabbè, voi tirate la cinghia e noi non sborsiamo un euro. Prego, Romanis. Allora, attenzione sul surplus, perché quella non è una regola. Quello beh, è un accordo. No, è un accordo, la Germania ne viola 2, noi ne violiamo 6. Quindi se noi andiamo a fare le pulce alla Germania, poi dopodiché scopriamo che noi siamo in una posizione assai peggiore di quella Germania, quindi forse là tatticamente non punterei molto il dito sul surplus commerciale della Germania, perché per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici noi siamo messi molto peggio. Sugli investimenti, di nuovo, io sono d'accordo con lei, certo che ci vogliono dei passi in avanti in Europa. Quello che questa crisi ha dimostrato è, come dice spesso il ministro Padoan, che è una crisi di fiducia. Dobbiamo ricostruire questa fiducia. Ora abbiamo Macron in Francia. Scusi, De Romanis, ma questa fiducia chi l'ha distrutta nei confronti dei cittadini? Si può fare anche una critica alla gestione dell'Europa in questi 5 anni e del paese che più l'ha influenzata, che si chiama Germania, o no? Ma scusi, ma noi che ci andiamo a fare in Europa? Noi partecipiamo al Consiglio europeo, siamo il terzo paese dell'area dell'euro, siamo la terza potenza. Se non ci ascoltano, abbiamo un problema noi. Noi dobbiamo andare lì e farci ascoltare, è chiaro che non possiamo andare lì e buttare. No, ma guardi, professoressa, io non ho niente. Tornare in Italia e togliere la bandiera. Io non ho niente in contrario che il paese economicamente. Non è che comanda la Germania. No, però mi scusi. Io non ho niente. Sì, però non raccontiamoci balle. Io non ho niente in contrario che il paese economicamente più forte possa essere anche quello che ha il maggior peso. Non ci vedo niente di strano. Noi siamo lì col debito, coi governi che salta così. Il problema è che se poi il paese economicamente più forte indirizza le politiche europee e ci può stare tutta, come dicono i ragazzi, questa, poi però fai anche un bilancio, hai voluto diciamo la guida simbolica oltre che economica dell'Europa, se ci ritroviamo con il più basso tasso di consenso nei confronti dell'Europa, buona parte dei paesi che hanno difficoltà a ripartire, la Francia che regge perché se ne frega altamente del deficit al 3%, forse, così come noi italiani abbiamo fatto 1000 errori, non possiamo dare sempre la colpa all'arbitro del campo da gioco, sono d'accordissimo con lei, forse si può fare anche una critica alla gestione, diciamo, attrazione tedesca di questa Europa, o no? Ma io penso, guarda, che il consenso in Italia è molto basso, anche dovuto alla comunicazione che viene data totalmente un dealer, appunto. Un giorno il Presidente del Consiglio toglie la bandiera europea, un altro giorno la rimette, un altro giorno dice che vuole cambiare le regole, un altro giorno dice che le regole hanno rispettate per i nostri figli. Cioè, è difficile da comunicare. Oggi, per esempio, in Europa noi non paghiamo più un roaming. Questo andrebbe spiegato, questa è l'Europa. Detto, certo. Ma soprattutto l'Europa sono i nostri politici che eleggiamo noi, siamo noi che li mandiamo in Europa a tutelare i nostri interessi. Forse sbagliamo persone. Questo è il punto. La Merkel sta lì da 12 anni, verrà rieletta molto probabilmente perché i tedeschi si fidano di lei. Finché non siamo un'unione politica, e non lo siamo perché non siamo neanche un'unione fiscale, è chiaro che i leader che si siedono al tavolo rappresentano il loro elettorato. Forse chi abbiamo mandato fino ad oggi non ha saputo farsi sentire abbastanza. No, ma questo non c'è, su questo non c'è dubbio, le due cose si tengono assieme. Professoressa, io vedo molti messaggi, glielo dico prima di salutarla, molti a favore, questo non è, lo dico agli ascoltatori, non è uno scontro tra me e dei romani, uno a uno, palla al centro. Molti che sono d'accordo con lei, e questo fa capire anche la pluralità di ascoltatori, altri che invece non sono d'accordo e pensano che ci sia una responsabilità anche... Comunque posso aggiungere un'ultima cosa sull'austerità? Sì. Quando si fa un uso responsabile delle risorse scarse, si libano risorse anche per le persone più deboli. E quindi l'austerità non solo dovrebbe essere associata alla parola responsabilità, ma anche alla parola solidarietà. Questo è quello che è successo nei paesi dove effettivamente si fa un uso corretto dei soldi dei cittadini, perché noi ci dimentichiamo che questi politici usano i soldi nostri. Guardi, domani abbiamo la classifica, ogni settimana, forse non lo sa, abbiamo una classifica dei 5 sprechi della settimana della pubblica amministrazione. Se metto assieme tutti gli sprechi abbiamo fatto, non dico una manovra finanziaria, ma un bel tesoretto, per cui sono d'accordo al 100% con lei. La prossima volta che sento un suo collega tedesco, però gli faccio notare che se noi avessimo applicato i criteri di Maastricht per l'unificazione tra Germania dell'Ovest e Germania dell'Est, non l'avrebbero mai fatta, perché hanno imbarcato una marea di deficit. Cioè, quello che voglio dire, uno fa i compiti a casa, però non si può sempre essere impiccati quando è la peggior crisi dal 29 in poi a il 3% come scritto sulle tavole della legge. Secondo me è mancata anche una comprensione di quello che poteva essere anticiclico, cioè contro la recessione in atto, e questo ha portato una sfiducia non solo italiana nei confronti di questa gestione europea. Ma ripeto, è la mia opinione del tutto personale, e sono molto contento della posizione di Veronica De Romani. Si ripeto il titolo del libro: l'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione, casa editrice Marsilio. E quindi grazie anche Veronica De Romanis, in bocca al lupo per il libro Traffico e poi la borsa. Focus Economia. Minuti, do un accenno di borsa e poi dopo il GR24 vedo che molti utilizzano un tifo da stadio. Brava la De Romanis, ti ha menato. Ragazzi, non è che mi ha menato, non mi ha menato. Ha le sue idee molto chiare, assolutamente rispettabili e piene di fondamento. Io la penso in maniera un po' diversa, fermo restando che tutti e due sugli sprechi la pensiamo allo stesso modo. Ma non è una partita a tennis, altri schiano ha vinto lei, ma non ci sono vincitori e perdenti. Si tratta di ragionare sulle cose, e il punto di vista della De Romanis è quantomeno interessante, non è che uno deve concordare con lei, interessante rispetto ad altri che abbiamo esposto e altri ospiti che abbiamo avuto. La borsa meno 0,54, diverso, non che non fossero interessanti, diverso da quello di altri ospiti che abbiamo avuto. Meno 0,54% Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,90 Francoforte, meno 0,50 Londra, meno 0,70 Londra. Dei titoli parleremo dopo. Case New Holland più 3%, il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione. Saipem meno 3,60 è il peggiore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Wafferlago. Wafferlago, dolci emozioni italiane. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie toccanti al Falco e il Gabbiano. Herbert Pagani, un artista trasversale del quale si sta parlando troppo poco. Davide Nicola, l'allenatore che porta la città di Crotone a vivere un grande sogno, un sogno che lui vive assieme al figlio Alessandro, che non c'è più. E per sulle ali di carta, Zeno Cosini alle prese con la sua coscienza e con la sua inedia. La voce inconfondibile che era il grido di dolore di un'anima tormentata, Joe Cocker. Uno dei più terribili errori giudiziari della storia, Gian Giacomo Mora, accusato di essere l'untore di Milano. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e il Gabbiano su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Dottor J e Mister I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, diciamo della borsa, oggi realizzi alcuni su alcuni titoli legati al settore energetico, perché c'è il petrolio che continua a oscillare ma sempre verso il basso. Per quello che riguarda il dato sul petrolio di oggi, è sceso di un altro mezzo punto percentuale, ma il punto è che è a $44.5 al barile. Chi si aspettava che dopo le decisioni dell'OPEC degli ultimi mesi potesse restare stabilmente a $50, resta deluso. Saipem perde il 3,62%, in generale pressione sugli energetici, Italgas meno 3%, ancora per quello che riguarda i titoli Eni perde lo 0,60%. Vendite sui tecnologici, il Nasdaq, non ve l'ho dato, ma perde l'1%, e questo porta giù di nuovo, come è accaduto anche 3 giorni fa, ST Microelectronics. Italgas, va detto che viaggiava sui massimi, perde il 3%, ma viaggiava sui massimi. Negativa anche Banca Generali, meno 3,13%, Leonardo perde il 2,50%, Unipol il 2,20%, Fineco Bank il 2,10%, Unipol sai perde il 2% come Buzzi. Unicem, per quello che Unipol tra l'altro ha ripiegato dopo l'apertura, ne parliamo più avanti, di Cimbri, il numero uno, ha un intervento di sistema sulle due banche vente, se vi saranno anche gli altri, le altre banche, gli altri istituti a partecipare. Per quello che riguarda i titoli che bene si sono mossi, Case New Holland più 3%, Campari più 2%, Ferragamo più 1,70%, Ubi più 1,70%, Mediaset più 0,80%, come Exor, migliori e peggiori in assoluto, MacLink più 26%, Innovatech più 22%, Poligrafici più 8,40%, Sole 24 Ore più 6,20%, Landi più 6%, Fronte Opposto, di Mail Group meno 9,60%, Energy Lab meno 8,90%, Giglio meno 8,5%. Restiamo su quello che ha mosso o avrebbe dovuto muovere i mercati, mica tanto oggi, ossia la decisione della Federal Reserve di Janet Yellen ieri in serata di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto. Secondo rialzo di quest'anno, i tassi salgono quindi all'1/1,25% ed è la prima volta dal 2008, dall'ottobre del 2008, da Lehman Brothers, che il costo del denaro in America, negli Stati Uniti, va a quota 1%. L'ha giustificato sulla base di un dato economico buono, non solo sull'economia ma anche e soprattutto sulla disoccupazione, che è scesa ai minimi dal 2001 al 4,3%. Marco Valsani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. In collegamento da New York, sentiamo questo passaggio di Janet Yellen ieri. The Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate. Il FOMC ha deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portandoli all'1,25%. La nostra decisione di compiere un'ulteriore graduale riduzione della politica accomodante riflette i progressi che l'economia ha fatto e che prevediamo faccia verso la massima occupazione e la stabilità dei prezzi. Dopo un rallentamento nel primo trimestre, l'economia sembra essere ripartita con un conseguente ritmo moderato di crescita fino ad oggi. La spesa delle famiglie, che era stata particolarmente morbida ad inizio anno, è stata sostenuta da fondamentali solidi, incluso un miglioramento del mercato del lavoro. E le esportazioni hanno mostrato una maggiore forza quest'anno, in parte riflettendo un aumento della crescita a livello globale. Complessivamente, continuiamo a prevedere che l'economia si espanderà a un ritmo modesto nel corso dei prossimi ultimi anni. Il tasso di disoccupazione è diminuito di circa 0,5 punto percentuale da inizio anno ed è stato pari al 4,3% a maggio, un livello basso rispetto agli standard storici. Guardando avanti, ci aspettiamo che il mercato del lavoro si rafforzerà ulteriormente. Con l'occupazione vicino al suo livello massimo sostenibile e il mercato del lavoro che continua a rafforzarsi, il Comitato continua ad aspettarsi che l'inflazione possa salire e stabilizzarsi intorno al 2% nel corso del prossimo paio d'anni, in linea con il nostro obiettivo a più lungo termine. Tuttavia, il Comitato sta monitorando attentamente gli sviluppi dell'inflazione. Nonetheless, the committee is monitoring inflation developments closely. Allora, Marco Bassania, lei ha detto poi resto tutto il mandato, non ho parlato con Trump. E anche oggi i sussidi della disoccupazione sono scesi meglio delle stime, a 237.000, 8.000 in meno. Sembra una Yellen molto, con le idee molto chiare, nel senso è partito il periodo di espansione economica, io lentamente alzerò i tassi di interesse. Sì, il progetto della Fed di Janet Yellen è sicuramente chiaro, le intenzioni sono chiare, vorrebbe continuare su questa strada di graduali, progressivi così, aumenti dei tassi di interesse. Normalizzazione, cammino di normalizzazione della politica monetaria americana, che comprende da ieri anche il piano, ufficialmente il piano di riduzione degli asset, dell'enorme portafoglio di asset accumulato dalla Fed negli anni della crisi, un piano che dovrebbe partire appunto verso la fine dell'anno. Ma tra le intenzioni e la realtà ci sono ancora degli ostacoli e nelle dichiarazioni di Yellen che abbiamo riascoltato adesso, il segnale di questi ostacoli è proprio sul fronte dell'inflazione. L'inflazione sta ancora deludendo e quella frase, diciamo, un po' sibillina in chiusura della Yellen lo indica chiaramente, cioè la Fed monitora con attenzione gli sviluppi dell'inflazione, che a questo punto è tornata ad allontanarsi dal target ideale del 2%, almeno per il momento, anche se poi la Yellen ha aggiunto che di pensare che che i prezzi torneranno poi nell'arco dei prossimi anni ad avvicinarsi al target del 2%. La delusione sull'inflazione e quindi, diciamo, il sintomo di debolezza comunque dell'espansione potrebbe complicare una decisione la decisione di un terzo rialzo dei tassi entro fine anno. Questo è un po' l'incognita che aleggia sul mercato. Cosa potrà fare la Fed ancora da qui a fine anno, se sarà in grado di proseguire sul cammino della normalizzazione con un ulteriore graduale rialzo dei tassi, oppure se dovrà di nuovo togliere il piede dall'acceleratore dei tassi. Su questo mi sembra però che, ed è l'ultima domanda che ho per te, che l'attività di preparazione del mercato stia funzionando, cioè non abbiamo visto grossi scossoni. Assolutamente. La Fed nella sua così politica di trasparenza, che è stata così spinta proprio dalla Yellen stessa, sta preparando il mercato, intende preparare il mercato proprio alle opzioni sul tappeto. L'ha fatto appunto annunciando il più chiaramente possibile come intende procedere nella riduzione degli asset e anche mettendo così sul tavolo quelle che sono le incognite e i ragionamenti della Federal Reserve sul fronte dei tassi. La Yellen ha ripetuto che le decisioni sui tassi rimangono data dependent, cioè legate all'andamento dei dati economici. Lei pensa che in questo momento, e la Fed pensa che in questo momento, i dati sull'occupazione, sulla crescita, sul manifatturiero, oggi è uscita una produzione industriale stagnante in maggio, ma comunque che segnala miglioramenti in generale, ecco, che questi dati possano reggere un ulteriore rialzo dei tassi forse a settembre, però ha ammesso che esistono appunto ancora dei dubbi, ancora delle perplessità, e che queste perplessità sono in particolare legate all'andamento dell'inflazione. Grazie, grazie anche a Marco Bassania. Noi dopo il traffico torniamo su un tema invece assolutamente italiano, ossia cosa sta l'ennesimo capitolo delle banche venete che si arricchisce, tra virgolette, dell'azione di responsabilità a questo punto intentata anche da Veneto Banca nei confronti degli ex vetici, 2 miliardi e 300 milioni, che fa seguito a quella approvata lo scorso 13 dicembre da 1,5 miliardi contro gli ex vertici della Popolare di Vicenza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Ennesimo capitolo, dicevamo, delle banche venete, mentre il ministro Padoan ha rassicurato ieri, ha escluso l'ipotesi di bail-in, ha detto che l'eventuale intervento di altre banche in un salvataggio di sistema deve avvenire su base volontaria. Sinora Unicredit ha dato una disponibilità di massima, purché appunto ci sia la partecipazione di tutti in maniera equa e proporzionale. Nodi, BPM, UBI e fondazioni, apertura oggi appunto, diciamo, di cimbri come Unipol, ICRE, Banca Mediolanum e Intesa, che diciamo è l'altro candidato grosso che deve far capire cosa vuole fare. Però il Consiglio di amministrazione Veneto Banca ieri ha dato via libera all'azione di responsabilità da 2 miliardi e 300 milioni, un conto a tutt'oggi provvisorio e potenziale. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Che possibilità c'è di recuperare questi soldi? Lo dico perché sulla Pop Vicenza hanno chiesto 1,5 miliardi. Zonina ha trasferito però tutte le sue quote ai figli in quello che riguarda azienda vinicola. Qualcuno mi scrive, beh, si può anche, visto il tempismo, si può anche impugnare la cosa. Ma insomma, che possibilità reali ci sono di ottenere i soldi chiesti sia per Veneto Banca che per Popolare di Vicenza? Ma non mi farei grandi illusioni, mi viene in mente, c'è un'azione di responsabilità in corso ancora su Cimoli, vecchia l'Italia, parliamo di 10 anni fa, io non so se poi Cimoli ha restituito i soldi, insomma sono passati 10 anni, sono questioni giuridiche molto lunghe, il tribunale valuta, la precitazione lì, poi arrivano i legali delle controparti, quindi immagino di Consoli, Zonine e degli indagati che muoveranno una serie di obiezioni. Ricordiamo che Zonina ha contrattaccato, ad esempio, dicendo, ha citato lui la banca, dicendo che lui non sapeva nulla, faceva tutto sorato, e quindi sarà una battaglia legale dove ovviamente la difesa di Consoli e Zonin cercheranno di dimostrare che non erano l'uomo solo al comando che ha rovinato la banca. Qui non mi fai grosse illusioni, l'azione era dovuta, ha un valore simbolico grande, ma è simbolico. Non mi farei grandi illusioni sul recupero delle somme, anche perché, come raccontavi, 5 mesi dopo essere uscito da Vicenza, il cavaliere Zonin si è spogliato di ogni bene, cioè ha girato le quote della sua casa vinicola Zonin ai 3 figli e di fatto è nullatenente. Poi scopriamo ieri, ad esempio, la casa vinicola Zonin ha esultato dicendo che aprirà dei vigneti in Cile. Il suo fatturato negli ultimi 2 anni è aumentato da 120 a 150 milioni e ha fatto 5 milioni di utile netto. Quindi la casa vinicola della famiglia Zonin va molto bene. E questa cosa accade nel momento in cui Vicenza è in prossimità, sì, devo dire, del secondo, devo dire, salvataggio. Sì, devo dire che non confonderei le due cose. Cioè, uno può andare bene come casa vinicola perché sono bravi gli amministratori, i figli, chi ci lavora e fa un buon prodotto. Altra cosa è il ruolo di Gianni Zonin come presidente del gruppo bancario Popolare di Vicenza, in cui, diciamo, era dominus per quello che noi abbiamo sempre visto. Poi lui dirà no, le cose le firmava Sorato e vedremo cosa decideranno i giudici. Terrei distinte le due cose, nel senso che appunto sono proprio due cose diverse. Detto questo, altra cosa è se si può impugnare il fatto che lui in tempi sospetti si sia spogliato di tutte le partecipazioni. Beh, insomma, è una coincidenza temporale, però puzza lontano un chilometro, cioè poteva farlo anche qualche anno fa. Lui dice che è una successione generazionale, però il cavaliere Zonin ha più di 80 anni, quindi se successione si tratta poteva anche farla o prima o dopo. L'ha fatta in coincidenza con la sua estromissione dai vertici, con l'inizio ovviamente delle inchieste giudiziarie, certo. Insomma, poi No, in ogni caso il tema è l'azione simbolica, va bene, ovviamente il nuovo corso ha fatto uno scandaglio in tutte le operazioni, come dire, che hanno portato alla rovina le banche, ricordiamole. In genere si tratta di finanziamenti dati senza merito di credito, spesso gli stessi consigli di amministrazione che poi andavano in sofferenza non restituivano. Veneto Banca ad esempio aveva dato ai suoi consiglieri 140 milioni di prestiti e una parte di questi sono diventate sofferenze, quindi gli stessi consiglieri della banca erano poi clienti poco solvibili. C'è il tema poi dell'ipervalutazione delle opere d'arte, anche lì, cioè uscita nei giorni scorsi, Consoli si comprava queste opere d'arte a prezzi assolutamente irrealistici, ovviamente pagava la banca. C'è il tema di aver indotto i risparmiatori a comprarsi le azioni, questo vale anche per Vicenza, su valutazioni a prezzi allucinanti, drogate, certo. Nel senso che il tema, gli aumenti di capitale li hanno fatti dando indicazioni sulla salubrità dei conti della banca e quindi diciamo che l'azione risarcitoria quantifica perlomeno da questo quello che è il danno, danno minimo attribuibile, 1,5 miliardi agli ex vertici della Popolare di Vicenza e 2 miliardi e 300 milioni agli ex vertici delle banche venete. Almeno diciamo hai un ordine di grandezza nella stima risarcitoria, no? Per cui uno può, che abiti in provincia di Treviso o in provincia di Vicenza, capire quello che secondo l'attuale CDA è il danno causato dalla vecchia gestione. Poi da lì a vedere sti soldi, sono d'accordo con te. Mi dici solo un'ultima cosa, ma il fronte invece dell'operazione di sistema, qualcosa si sta muovendo rispetto a 2 settimane fa? Penso a Unicredit, penso a Cimbri, Unipol oggi. Non si sta ancora arrivando però a una concretezza. Beh no, anche perché, ripeto, è un'operazione quasi a perdere, non so come dire, è un po' come i capitani coraggiosi di Alitalia, io questo parallelismo tendo a farlo perché le storie si sovrappongono, cioè tu sai che metti quei soldi per diventare socio di minoranza, perché ricordiamo, se tutto andrà bene lo Stato diventerà l'azionista principe delle due banche, quindi tu entri con una nuova iniezione di capitale dopo che come Atlante hai perso 3,5 miliardi, metti un altro 1,2 miliardi, per fare l'azionista di minoranza di una banca che è vero che è stata ricapitalizzata, però poi dovrà risistemare i suoi conti, perché non dimentichiamo, sono banche che hanno un cost income superiore al 100%, cioè i costi superano i ricavi e quindi vanno in perdita automaticamente, certo. Solo per la normale operatività. Sì. Quindi sono banche moribonde, ovviamente. Allora, che non ci sia nessun desiderio di entrare è chiaro. Faccio notare un'ultima cosa nel salutarti, che però il calcolo di quanto costerebbe un fallimento della Popolare di Vicenza è ben più alto del 1,1 miliardi, 1,2 miliardi richieste al sistema bancario, si aggirerebbe intorno agli 11 miliardi, questa era diciamo l'altro ragionamento. Grazie per ora anche a Fabio Pavesi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani, torna la classifica, dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.